Sì, è chiaro che quest'ultima cosa che lancia, che butta sul tavolo, perché alla fine è giusto quello che dice Claudio, noi è quello che facciamo da anni con la Terra Trema, noi mettiamo un tavolo qua, lo prepariamo e poi chiunque voglia butti qualcosa sul tavolo. Sappiamo una serie di progettualità che sono nate, che conosciamo, che abbiamo attivato noi. Sappiamo di una serie di progettualità che sono attivate al di là di noi, durante i 3 giorni della Terra Trema, nel senso produttori che si conoscono, progettualità che si sviluppano perché uno conosce una cosa piuttosto che un'altra. Oggi Giuseppe, quando è arrivato, ha attraversato il Salone del Leo, mentre parlavamo, gli raccontavo come stava andando la fatica, ci è scappato lo sguardo e c'era Renato, un ragazzo, un birraiolo, e subito è scattata Giuseppe fa, c'è un grano antico da proporti. Quindi queste sono le cose, piccole cose, però a nostro avviso significative. Quindi se vogliamo rilanciare, cioè insomma, il Leo è qua, il Folletto c'è, la Terra Trema c'è, e quindi però appunto come sempre ribadiamo, noi non vogliamo fare sintesi di nulla, nel senso non abbiamo mai avuto questa pretesa, non fa parte del nostro modo di lavorare, ma semplicemente appunto il nostro è quello di creare degli immaginari e sviluppare delle progettualità concrete al di là delle chiacchiere e delle enunciazioni da mantra che spesso succedono sia quando si santifica il capitalismo finanziario, sia quando si dice di essere contro o comunque di sviluppare un'alternativa. La nostra modalità di lavoro è un'altra, è un po' quella di questa sera, è quella di questi di anni di lavoro. Quindi niente. A questo proposito, altri incontri. Quando si parla di agricoltura si parla anche di lavoro, e noi abbiamo messo sempre l'attenzione rispetto a quello che cosa vuol dire lavorare in agricoltura. Abbiamo molti amici, che compagni e fratelli che tra l'altro ci hanno dato una mano e ci continuano a dare una mano nella costruzione della Terra Trema, nel senso che comunque ragazzi stranieri, magari senza permesso di soggiorno, con una serie di storie, di situazioni che ci hanno raccontato, che hanno vissuto, magari anche in agricoltura. Quindi quel tipo di attenzione ce l'abbiamo sempre messa nel rapporto con gli agricoltori che venivano alla Terra Trema, nel senso che una delle cose che faceva la differenza e che faceva scattare una relazione, un'amicizia e un rapporto di lavoro, di sviluppo di progetti, la discriminante era anche che tipo di lavoro produci per te, ma anche per le persone che magari lavorano per la tua azienda. E una delle esperienze che abbiamo incontrato è stata quella delle brigate di solidarietà attiva, che ci sono anche a Milano, e le abbiamo conosciute proprio su un progetto molto concreto, nel senso che a un certo punto loro, poi Nives magari entrerà nel dettaglio, ci racconterà che tipo di lavoro hanno fatto e fanno, tipo a Rosarno, a Nardò, con i braccianti agricoli. E hanno portato delle arance qua a Milano da distribuire, e da lì è nata una chiacchierata, un confronto. Tra l'altro non so se c'è anche Giuseppe, che è un agricoltore, produttore di arance in Sicilia, che sarà in questi giorni qua alla Terra Trema, ed è nata una discussione intorno a che cosa vuol dire produrre un prodotto come l'arancia, che cosa vuol dire essere braccianti agricoli in Italia nel 2012 e magari essere stranieri senza permesso di soggiorno e vivere un certo tipo di situazione. Nive, se hai voglia di raccontarci che cosa sono le brigate e che cosa è stata la tua esperienza, insomma la vostra esperienza.